sei tu che tormenti il mio cuor. Cosa vuoi farne di me? Mi fai soffrire perché chi sei tu che vuoi tu che fingendo l'amor m'hai reso schiavo di te, solo di te. Io son qui, ti chiamo, dove sei che sentir non puoi tu? Tu lo sai che t'amo, t'offro un cuor non posseggo di più. Chi sei tu, che vuoi tu, che pur senza parlare mi sai capire? Solo con te, sempre con te. Vivo ma mi tormentano l'ore che lente passano, il ricordo di baci d'un dì mi fa sognare. Vieni, ritorna, stringimi, fra le tue braccia prendimi, io ti chiamo, ti invoco così, ti voglio amare, non lo so tu, che pur sei.